Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Bentornati all'ascolto, anche questa puntata è guidata da Valerio Rocchetti, il nostro regista, e sarà, per così dire, condotto da una cara amica, Maria Nicoletta Gaida. Benvenuta. Grazie. Nicoletta è presidente del consiglio di amministrazione di Glocal Forum, che è una iniziativa, diciamo così, nata dalla mente di Uri Savir, che fu capo negoziatore negli accordi di pace di Oslo e attualmente presidente del Centro Peres per la pace, e da altre entità nazionali e multinazionali, dedicata al sostegno di processi di pace e ai modelli di cooperazione coerenti con il valore etico dello sviluppo sostenibile. Un'attività molto ramificata che in questi giorni, per questo abbiamo chiamato Nicoletta Gaida a parlarci, in questi giorni è costretta a restare per 2 o 3 mesi ferma al palo, così si spera, perché in seguito alle recenti vicende di Gaza tutti i finanziatori internazionali hanno trovato niente di meglio da fare che togliere il sostegno finanziario a queste attività di pace. Ed è un po', diciamo così, l'idiosincrasia di questo pacifismo salottiero che sui giornali fa bei discorsi e poi, diciamo così, quando vuol far vedere che ha i muscoli, l'unica cosa che riesce a fare è sparare, diciamo, sulla Croce Rossa, sui disarmati, vero Nicoletta? Beh, direi di sì, più o meno è così. Perché, diciamo, capita pure che la pace deve avere il colore politicamente corretto, perché se la fanno gli israeliani nasce da un'idea di pacifisti israeliani e si ramifica poi nel mondo, perché stiamo parlando di qualcosa che ha, diciamo, ramificazioni dall'Olanda fino a diversi paesi del cosiddetto sud del mondo, passando per l'Italia. Nicoletta è presidente del consiglio di amministrazione di Glocal Forum Italia, però, diciamo, è in compagnia di tante colleghe che hanno da Ankara fino all'Africa, passando per l'Asia, quindi qualcosa di sostanzialmente molto impegnato, anche molto fattivamente impegnato, proprio per l'attuazione di quegli accordi di pace di Oslo, insomma, comunque far entrare questo spirito in assistenza sociale, sociosanitaria, nella comunicazione, nell'informazione, nel dialogo interculturale, interreligioso, nell'ambiente, perché una delle iniziative era quella di piantare alberi, vero Nicoletta? Beh, questa è un'iniziativa che Shimon Peres ha da molti anni. Per lui il greening of the Middle East, cioè piantare in alberi in tutto il Medio Oriente per accomunare tutti i popoli del Medio Oriente su un principio che è molto importante, che è quello di creare un ambiente più sostenibile per tutti. E che anche questo, insomma, è un progetto che da tanto lui stesso in prima persona sta lottando per portare a casa, ma che trova molte difficoltà. Ma come la spieghiamo questa specie di sindrome idiota, secondo me, che si costruisce la pace togliendo fondi a iniziative di pace, peraltro, diciamo così, posta all'ombra di un premio Nobel per la pace? Quindi neanche... Perché c'è molta ipocrisia. Perché si tende a guardare, cioè giustamente si guarda chi soffre, si guarda in primo luogo si guarda i bambini che soffrono, infatti specie i bambini di Gaza, perché è stata una cosa terribile, non si poteva proprio vedere, pensare, ha scosso le coscienze di tutti. Però bisogna anche guardare alla costruzione della pace, perché sennò questi bambini continueranno a morire come continueranno a morire i bambini israeliani. Ossia, proprio nei momenti più difficili bisogna insistere a costruire la pace nonostante la guerra. Invece questo è un principio, un concetto che è molto difficile da far passare, specialmente agli sponsor, che hanno paura, i contribuenti, diciamo, a queste iniziative, hanno paura davanti all'opinione pubblica di passare come sostenitori dei cattivi, perché in questo caso, che se ne voglia dire, che si dica pubblicamente, in realtà i fatti dimostrano che reputano la maggior parte parte, perlomeno dei finanziatori internazionali, Israele è la cattiva della situazione, quando di certo quello che è successo è terribile, però quando esiste una formazione politica che ha nel suo mandato quello di distruggere un'altra nazione, quell'altra nazione dopo un po' di anni che continua a ricevere missili, se nessuno si muove, l'ONU per prima deve fare qualcosa pure per difendersi. Allora è inutile che tutti ipocritamente dicano adesso Israele ha sbagliato, Israele ha sbagliato, perché non è entrato nessuno prima a dire fermatevi con questi missili? Perché nessuno si è mosso prima e solo adesso si muovono per criticare? E perché si pensa ancora che la democrazia possa essere esportata coi bombardieri? Però per parlare male, per dare un colpo alla botte uno al cerchio, perché parliamo male anche un po' di noi, perché l'interculturalità e il dialogo interreligioso è un campo di impegno ormai da quasi due decenni per Nicoletta Gaida, che è anche coinvolta in progetti che riguardano Roma e riguardano l'Italia, eppure lì diciamo notizie, le buone intenzioni sono tante, ma poi all'atto pratico, quando si taglia proprio partendo da chi non dovrebbe o non potrà, o non può o non è autorizzata a protestare, come per esempio dei progetti che riguardano i Rom. Sì, ma questa è una cosa ancora misteriosa, che sono molti mesi che stiamo cercando come le formichine arrivare a capire esattamente come funziona, perché noi sappiamo, tutti sanno che l'Unione Europea, che il Consiglio d'Europa ha indicato come priorità per i fondi sociali europei del quinquennio 2007-2013 proprio l'inclusione sociale dei Rom. E dunque ci sono dei fondi anche piuttosto consistenti per far sì che insomma qualche azione venga portata avanti per includere i Rom che vivono in Italia, come tutti sanno, in maniera assolutamente disumana. Però io, ecco, quello che non riesco a capire è perché non si riescono a fare i progetti. I fondi ci sono, l'indicazione dell'Unione Europea c'è. Perché non viene fatto niente? Noi adesso, non solo con il Global Forum, ma anche con la Casa delle Regioni del Mediterraneo, che è presieduta dal presidente Marrazzo, e stiamo appunto cercando di portare avanti un progetto che tratta, che include un segmento di campagna di antidiscriminazione per affrontare questo argomento che è molto importante, un altro segmento che vuole portare alla conoscenza del pubblico più vasto chi sono i Rom, quali sono le loro origini, qual è la loro lingua, qual è la loro storia. Pochi per esempio tengono in considerazione o ricordano, anche perché non c'è nessuno, non c'è né un luogo né un libro di storia, nulla che ricorda l'olocausto dei Rom avvenuto insieme parallelamente a quello degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. C'è una parte di formazione, di inserimento professionale, sempre in questo progetto una parte di banca dati. Stiamo tentando di trovare nell'ambito del Fondo Sociale Europeo i fondi che sono proprio messi da parte per questo, e ancora non siamo riusciti. Tra l'altro mi risulta che in questi giorni c'è anche una così un'attività da parte del Ministro delle Finanze di attingere da questi fondi per le problematiche varie che tutti conoscono su Beh, la comunque questo è anche il paese che si è inventato una tassa sui giochi di Stato come i gratta e vince, i super enalotto, destinandoli nell'intenzione della legge al restauro del patrimonio artistico e culturale italiano. Poi apprendiamo, con due o tre anni sempre di ritardo, che servono egregiamente per finanziare le cosiddette missioni di pace all'estero. Ecco, questa non la sapevo. Poi sostanzialmente adesso non è che magari dovremmo apprendere che i fondi europei destinati all'inclusione Rom, cioè da una parte è bene che i Rom stiano in Italia perché così l'Unione Europea ci dà dei fondi adeguati, poi magari dall'altro scopriamo che diciamo, ci introducono ricchezza malgrado loro, però di questa ricchezza loro non arriva nulla. Cioè. Ecco, mi sembra ben messa. Ma un altro progetto sul quale stiamo lavorando ormai da molto tempo, che doveva andare in porto già a maggio dell'anno scorso e poi per il cambio di governo e la indisponibilità di tempo del Presidente del Consiglio, che ovviamente appena eletto aveva altre cose da fare è un progetto invece basato sul perdono. Questo sì, con Shimon Peres, che è il mio primo partner in questo progetto e che ha avuto però anche il sostegno di Abu Mazen e del re Mohammed VI, il re del Marocco. Ed è un progetto che vuole lanciare la possibilità di utilizzare il perdono in politica. Ossia, bisogna fermare questa guerra. Ma un po' come i sudafricani sono riusciti, diciamo, a risolvere il dopo apartheid, sì, facendo giustizia senza per questo doversi necessariamente giustificare per le vendette che non hanno compiuto. No, ma infatti bisogna tirare una riga e ricominciare da capo, perché se no, se si continua a fare la contabilità della pace, non si arriverà da nessuna parte. Ora Desmond Tutu, tra l'altro, che tu stai menzionando adesso, ha aderito a questo progetto. Però ecco, anche questo per me è molto difficile da capire. Volevamo lanciare questa proposta dall'Ara Pacis proprio per quello che rappresenta l'Ara Pacis per tutto il mondo mediterraneo, la visione di Augusto e così via. Ma ecco, anche una cosa così semplice, tra l'altro molto poco costosa, non si riesce a fare, non si riesce. Ci sono già un dialogo avviato con Palazzo Chigi, con il Quirinale, ma insomma è sempre un po', è tutto lesso, non so, un po' frustrante. Maria Nicoletta è italoamericana e ha strani accenti nella sua voce, compreso quello della sua mamma veronese, veneta. Mezza veneta e mezza istriana. Mezza istriana. Mm. Mentre il padre è mezzo tedesco e mezzo americano. Sì. quindi tutti di frontiera comunque. Tutti di frontiera, e forse così si può anche gustare la pace. Noi in genere iniziamo con una citazione. Questa volta magari possiamo concludere. Che frase avevi portato per noi in questa prima parte? Più che una frase... E tu mi hai chiesto quali erano le frasi o i testi, insomma, che più hanno influenzato la mia vita. Io ne ho due proprio molto chiari. Uno sono le parole di una canzone del Man of La Mancia, della versione musical di Don Quixote. E quello, diciamo, leggiamo ora. Sì, devo fare una traduzione, sì, al volo. Perché no? Si chiama Il sogno impossibile. Sognare il sogno impossibile, combattere il nemico imbattibile, sopportare il dolore insopportabile, correre dove i coraggiosi non hanno il coraggio di andare, fare giustizia dove non c'è possibile giustizia, amare da lontano e castamente, lavorare quando le tue braccia sono troppo stanche e mirare sempre per la stella più lontana e irraggiungibile. E questa è la mia missione, di seguire quella stella anche nonostante quanto senza speranza e quanto lontana, di combattere per la giustizia senza domandare e senza fare pausa, e essere pronti a marciare fino all'inferno per una causa del paradiso. Maria Nicoletta Gaida, presidente del Consiglio di Amministrazione di Global Forum Italia, la nostra guida questa settimana. Il cielo in una frase, di Filippo Di Giacomo. E di Maria Nicoletta Gaida, presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Global Forum Italia, la nostra guida questa settimana. Abbiamo nella prima parte, Nicoletta, un po' così volto di nuovo il nostro sguardo verso la pace, verso la regione dove in questi giorni la pace è stata attaccata, o comunque così continua a darci i segni di una esistenza precaria e soprattutto fragile. Dove partiamo questa volta? Dalla preghiera semplice. Ah, quella di San Francesco, che in questi giorni l'Osservatore Romano ci ha comunicato dover essere ormai attribuita a un anonimo. Sì. Beh, diciamo, prima o poi resteremo anche in attesa dell'articolo che ci comunicherà che Gesù è morto di raffreddore e saremo tutti contenti. Comunque noi continuiamo ancora a considerarla, diciamo, da bravi italiani, come uscita dal cuore di San Francesco. E cosa dice questa preghiera? Signore, fai di me uno strumento della tua pace. Dove odio, fa che porti l'amore. Dove offesa, che io porti il perdono. Dove discordia, che io porti l'unione. Ma questa forse la conoscono un po' tutti. Sì, ma non molti ricordano che il giorno in cui la Beata Teresa di Calcutta fu insignita del premio Nobel, si presentò a Oslo con una suorina. E mentre veniva chiamata molto pomposamente sul palco, la suorina distribuiva un foglietto a quelli che partecipavano alla cerimonia di premiazione. Madre Teresa di Calcutta andò al microfono e disse: beh, avete ricevuto un foglietto, adesso recitiamo insieme questa preghiera. Ed era la preghiera semplice di San Francesco. È stata la prima e unica che è riuscita a far pregare simultaneamente. Anche Desmond Tutu tentò, ma si presentò con la sua famiglia, perché come vescovo anglicano è sposato, padre di figli e nonno di nipoti, e si misero insieme e cantarono il Padre Nostro nella lingua xhosa. Ma allora ti dico anch'io una cosa su questa preghiera semplice, che è anche la preghiera che ha ispirato e che ispira il lavoro di un personaggio che viene chiamato Capitano Ultimo, che si conosce forse per la sua azione più clamorosa, che fu l'arresto di Totò Riina. E Capitano Ultimo si chiama appunto Ultimo perché lui si ispira a San Francesco. E con Ultimo, il Glocal Forum, adesso con la Fondazione Capitano Ultimo, ha un progetto che è proprio quello di realizzare un campus della legalità e della produttività dedicato a tutte le persone più deboli, i soggetti più deboli, le prostitute, i clandestini, i rom, le persone con disabilità mentali. E con lui stiamo sempre sul Fondo Sociale Europeo, che non lo portano via, cercando su questo terreno di 32 ettari che è stato messo a disposizione del Comune di Roma, si chiama Parco della Mistica, e tentando di realizzare questo progetto che è piuttosto interessante perché darà formazione e inserimento professionale a tutti questi soggetti deboli nello stesso Parco della Mistica. Ossia, si insegna alle prostitute nigeriane che denunciano i loro padroni, le schiave, avranno la possibilità di essere formate in, che ne so, ristorazione piuttosto che il teatro, o azienda agricola, quello che c'è, che le attività che saranno su questo Parco della Mistica verranno poi gestite dagli stessi soggetti deboli lì formati e che verranno appunto inseriti professionalmente in questa maniera. Tutto questo con l'aiuto della Nazione Italiana Cantanti, che ovviamente con i cantanti popolari che ne fanno parte porteranno molta attenzione su questo progetto, perché normalmente sui soggetti deboli si parla sempre di assistenza, no? Allora normalmente ci sono appunto le organizzazioni religiose, cattoliche soprattutto, che si occupano dei soggetti deboli. In questo caso invece è un colonnello dei Carabinieri con tutti i suoi colleghi che faranno volontariato lì e i cantanti più popolari di questo paese. Perciò è un modo forse inedito e sicuramente molto efficace per includere soggetti deboli, sempre nella ispirazione tratta dalla preghiera semplice di San Francesco. Credo che socialmente parlando, sociologicamente parlando, l'Italia questa straordinaria capacità di esprimere quello che poi con un linguaggio molto caro alla sociologia cattolica si chiama questo spirito di supplenza, cioè dove ci sono i buchi dell'organizzazione sociale, poi c'è un modo assolutamente impensabile altrove, perché magari in contesti più compassati o ingessati dei nostri, ognuno fa il proprio mestiere, in modo molto più libero, in modo più generoso anche, come fa notare spesso Dominique Lapierre quando dice: incontro dappertutto volontari italiani che stanno su ogni frontiera, su ogni cantiere del dolore. Se pensiamo anche alle grandi ONG presenti, che si incrociano con grandi gruppi privati, ma anche piccolissimi, diciamo così, gruppi. Conosco medici, è venuto qui un presidente di una ONG che è composta praticamente da medici di una struttura sanitaria di una ASL di Roma che fanno peacekeeping o peacebuilding nel Corno d'Africa praticamente a loro spese, insegnando la buona arte medica, cioè quello che hanno tra le mani, e costruendo così un percorso di condivisione anche all'interno della multiculturalità dentro Roma. Poi però quello che poi manca è che quando si fa il salto ulteriore, appunto, il ministro prende i fondi per l'integrazione dei Rom e lo mette su un'altra voce di bilancio, si raccolgono fondi per restaurare i monumenti, ci si finanzia un contingente all'estero. Cioè, allora il grande problema è: ma non è che l'eccesso di fantasia morale, anche da parte di organizzazioni più diciamo, ramificate come Glocalform Italia, non è continuamente l'alibi perché poi la politica continui a non seguire. Non sarebbe il caso di incominciare a protestare o a denunciare o anche a dire: guardate che politicamente non abbiamo ancora... Sì, ma forse sì, io non ho... Non lo so, io mi stupisco sempre di questo paese, davvero. E tanti mi dicono: ma perché sei qui? Ma perché non cambi? Tu che puoi, che parli tutte queste lingue, perché non vai da un'altra parte? Non so, io credo davvero che in questo paese si possono fare delle cose impossibili, che in altri paesi davvero sarebbe impossibile realizzare. Però poi, quando sono realizzate, è come se non fossero preziose, come se non contassero nulla. In un secondo si possono distruggere, si possono dimenticare. Nessuno combatte per mantenerle vive. Le uniche cose che continuano sono quelle legate al potere. Dunque, in realtà, noi ONG non potenti, ma che vivono davvero solamente per i propri scopi, non abbiamo proprio una voce forte abbastanza per cambiare le cose così come tu stai indicando. Bene, questa, diciamo così, per quanto vale, per quanto serve, è comunque uno spazio dove avete la possibilità di dare la voce. Questo, concludiamo, abbiamo ancora un minuto, è una frase che va di moda anche in questi tempi, in epoca successiva all'insediamento di Barak. È possibile dire: anch'io ho un sogno. Allora, che sogno ha la presidente di Glocalform Italia? Ma il mio sogno è sempre quello di poter realizzare i progetti che fanno bene al cuore e che abbiamo concordato con tanti, quello dei Rom. Ci sono tutte le comunità Rom di Roma e del Lazio che stanno attendendo che vada in porto, perché noi non facciamo mai le cose solamente dalla nostra testa, le concordiamo con i beneficiari, perciò sia il progetto della Mistica che questo dei Rom, un altro che non ho nemmeno menzionato, che è in Africa, sulla stampa libera in Africa, per aiutare un processo così democratico anche in paesi così difficili come tanti sono in Africa. Ecco, il mio sogno è solamente di poter realizzare questo, di creare un mondo migliore, perché ho un bambino piccolo e credo che, come tutte le mamme di bambini piccoli oggi, sperano così tanto in Obama perché è l'unica speranza che abbiamo. Speriamo che porti qualche realtà e non solo il sogno. Bene, Maria Nicoletta Gaida, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Glocalform Italia, momentaneamente in stand-by perché, come abbiamo detto all'inizio di questa trasmissione, qualcuno pensa di far vedere i muscoli togliendo i fondi a questa iniziativa di pace ramificata in tutto il mondo, che ha però il grande peccato originale di essere stato pensato in Israele, niente proprio di meno che, da un pericoloso personaggio chiamato Shimon Peres. Abbiamo cercato di riderci sopra, naturalmente non c'è nulla da ridere. Grazie Nicoletta per essere venuto tra di noi, grazie a voi che ci seguite, grazie a Valerio Rocchetti, regista, e a risentirci.